in primo piano. Beh, è la nuova inchiesta, quella che ha soppiantato nei titoli di prima pagina l'inchiesta sul G8. L'inchiesta che dà spunto al Sole 24 Ore di questo titolo: maxi frode nelle telecomunicazioni. Ma le aperture sono tutte uguali, eh? Telefonia, una frode colossale per il Corriere. Telefonia, mafia e riciclaggio per Repubblica. La grande truffa dei telefoni per La Stampa. Poi c'è chi, diciamo, si sbizzarrisce in titoli un po' più particolari. Per esempio il Manifesto, 'Ndrangheta a tutta pagina, solo che la A di 'Ndrangheta è la chiocciola, quel il simbolo, insomma, della chiocciola, del et, per far capire, insomma, che si tratta anche di questioni di banda larga. Banda larga è il titolo dell'Unità e la foto è una chiavetta, un cavo, diciamo, tipico della banda larga che si attorciglia attorno a una grata di un carcere. La madre di tutte le frodi per il Riformista riecheggia molto la madre di tutte le tangenti, la tangente Enimont. Gangster Italia per il Fatto Quotidiano, che come al solito ci va ancora giù più pesante. Insomma, si sta parlando di questa inchiesta, di questa ipotesi di maxi frode, una frode tra le più colossali d'Italia. Questo si legge nell'ordinanza del GIP di Roma Morgigni. La leggo dal Sole 24 Ore a pagina 3, ovviamente sono tutte le prime pagine dei giornali dedicate a questa. Di che cosa si tratta? Sciocca Piazza Affari, l'inchiesta che vede coinvolte Fastweb, oggi controllata da Swisscom. Al centro dell'indagine è il gestore privato proprio della banda larga, Fastweb, con la richiesta d'arresto per il fondatore ed ex presidente del gruppo Silvio Scaglia, che si trova all'estero in Sud America. La magistratura, dopo 3 anni di indagini, leggo dal Sole 24 Ore su questa maxi frode nelle telecomunicazioni che ha coinvolto Fastweb e Telecom Italia Sparkle, ha disposto l'arresto di 56 persone, tra cui l'ex presidente di Fastweb, Scaglia, l'ex amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, Stefano Mazzitelli, il senatore Nicola Di Girolamo del PDL e altre figure. L'indagine parla di una frode carosello senza beni né acquirenti finali, con un meccanismo a lavatrice, avrebbe generato un danno allo Stato di 365 milioni di euro per mancato versamento dell'IVA a fronte di utilizzo di fatture emesse per circa 2,2 miliardi su servizi fittizi, nonché falsi crediti IVA e utili per 96 milioni per Telecom Italia Sparkle S.p.A. e Fastweb. Il reato contestato è associazione a delinquere transnazionale pluriaggravata finalizzata all'evasione fiscale contro la pubblica amministrazione, ma anche altri reati. Insomma, è una maxi inchiesta. Al centro, appunto, c'è la figura di Silvio Scaglia, analizzata dal Sole 24 Ore, chi è il pioniere italiano del web veloce, colui che nel 99 insieme a Francesco Micheli ebbe l'intuizione di fare da pioniere nella banda larga, con i piccoli risparmiatori che fecero a gara per accaparrarsi i titoli della startup Ibiscom, poi vendette tutto e nemmeno cinquantenne si ritrovò come uno degli uomini più ricchi d'Italia, il 13° secondo Forbes, l'800° più ricco al mondo, un patrimonio stimato di 1,2 miliardi. Ovviamente le reazioni, lo stesso Scaglia, raggiunto dal Corriere della Sera, una brevissima telefonata peraltro, ne parla Giancarlo Radice, lo raggiungiamo in Sud America. Ieri all'alba, sostanzialmente all'alba in Sud America, insomma il fuso orario poco complice. Non capisco cosa stia succedendo. Sa che c'è un mandato di cattura? Lo so, ma non so il perché. Sono già stato interrogato sulla stessa materia. Mi sembra davvero una roba da matti. E tra l'altro, siccome c'è anche implicato un politico, tra poco vedremo, tale Di Girolamo, e chi è? Risponde Scaglia al Corriere della Sera. Secondo il Sole 24 Ore, anche l'attuale CEO di Fastweb, l'attuale numero uno, vale a dire Stefano Parisi, secondo Orazio Carabini, ha passato la giornata a studiare le carte dell'inchiesta piovute sulla scrivania. Una rabbia trattenuta, ma com'è possibile? Si sta parlando di importi pari all'1% dei ricavi di Fastweb. Vogliono mettere a rischio il futuro di una società quotata con 3.500 dipendenti che diventano 8.000 con l'indotto. Essere colpiti da una sanzione cautelare significa uccidere l'impresa. Un disappunto dunque che sconfina nella rabbia, anche perché ora c'è l'ipotesi di commissariamento. Così ha chiesto la magistratura, cioè che ci sia un commissario per Fastweb Fastweb e per Telecom Italia Sparkle. Con Telecom invece, che sempre da Sole 24 Ore, Antonella Olivieri a pagina 2 dice: noi siamo parte lesa su Sparkle, uno di quei rami d'azienda che tra l'altro si fa sapere all'epoca, insomma, del piano triennale presentato dalla D. Bernabé, era stata posta tra gli asset potenzialmente cedibili. E allora, l'inchiesta, come detto, è maxi, ne trovate verbali, analisi su tutti i giornali. C'è anche l'analisi, insomma, di questa figura di un politico, senatore Di Girolamo. Per la verità è alla seconda richiesta di arresto, non è la prima volta. Lui è stato eletto infatti all'estero e, come ricorda La Stampa, per esempio, fu eletto nella circoscrizione europea, si vide subito sollevare un ricorso per ineleggibilità, perché secondo il primo degli esclusi, cioè il primo che fu escluso dopo, per la sua elezione, aveva inventato il senatore Di Girolamo una residenza all'estero, vicino a Bruxelles, quando in realtà questa residenza non esisteva. Fu richiesto l'arresto, autorizzazione agli arresti domiciliari negata dal Senato. Ora la nuova richiesta d'arresto. L'accusa di Girolamo è molto secca: avere preso i voti dell''Ndrangheta. Nicola Paolo Di Girolamo, leggo sempre dal Sole 24 Ore, eletto dai boss. Secondo i magistrati sarebbe stato un intreccio che vede legati alcuni imprenditori, o meglio alcuni sedicenti imprenditori strani che si accreditano presso le potenti cosche degli Arena di Isola Capo Rizzuto per fare eleggere Di Girolamo. Questo sarebbe lo scenario. C'è anche una intercettazione che il Sole mette a pagina 5, Marco Ludovico, è Di Girolamo che parla con tale Mokbel. Chi è questo Mokbel? L'ipotesi è che lui, i due avrebbero rapporti di vecchia data, e avvalendosi proprio della capacità di intimidazione e dell'operatività della cosca mafiosa, questo Mokbel avrebbe portato dei soldi, scusate, i voti a Di Girolamo. Chi è Mokbel? Appunto questo imprenditore romano schierato con l'estrema destra, contatti con Antonio Dinzillo, accusato di aver ucciso il boss della banda della Magliana, Enrico De Pedis. Insomma, l'intreccio è davvero misterioso e abbastanza inquietante. E c'è questa telefonata in cui si evince chiaramente che è Mokbel in qualche modo che tiene in pugno Di Girolamo, gli dice: tu hai preso la senatorite, ma tu sei uno schiavo mio, ricordati, lo tratta a male parole, sai che novità ci sta, come cazzo, fai come cazzo te pare, ti è venuta a candidite, anzi ti è venuta già a senatorite, questo è un problema tuo. C'è Di Girolamo che continua a profondersi in mille scuse: guarda, mi dispiace, vengo lì, ho sbagliato, tu rimani sempre il portiere mio, gli dice questo Mokbel, ricordati, nella mia testa tu sei un mio schiavo, per me non conti, sei come il mio portiere. E lo tratta proprio parolacce di tutti i tipi, insomma, sarebbe secondo gli inquirenti la dimostrazione che questo Di Girolamo era al servizio, insomma, di questo Mokbel. Questo è lo scenario che ha fatto dire, probabilmente, almeno secondo Nicoletta Picchio sul Sole, ha fatto dire all'ex presidente di Confindustria e che parlava ieri come rettore della LUIS, Montezemolo, parole molto dure contro l'illegalità, lotta titanica. L'affondo è proprio nei confronti della politica, che non avrebbe fatto le riforme. E il presidente Confindustria Marcegaglia dice: dopo le regionali ci vogliono le riforme. Insomma, il tema è quello della corruzione, una nuova inchiesta che rischia di terremotare la politica, rischia di terremotare una classe dirigente, tanto che il giornale titola in prima pagina: altri 56 arresti, tocca a Fastweb, arrivederci al prossimo scandalo, ha scritto Vittorio Feltri, che però dice: esagerano i magistrati? A questo punto forse si può dire che esagerano anche i ladri. Rubino pure, lo hanno sempre fatto, però mi raccomando, un po' di moderazione, per favore. Certo che Vittorio Feltri dice: altra giornata campale, altre 56 ordinanze di custodia cautelare. Insomma, si ode e si sente il cigolio sinistro dei cancelli. Gente che entra, gente che esce, soprattutto che entra, ovviamente, in carcere. Il tema è questo, legato poi al tema del nostro sondaggio, quello delle liste, le liste pulite, le liste non pulite. Si pone il problema della candidatura, visto che si stanno per chiudere sabato le liste alle regionali, su come scegliere anche i candidati, come scegliere gli esponenti della classe politica. Fini ha detto ci vorrebbe una leggina, chi viene beccato a fare reati contro la pubblica amministrazione stia fermo un giro, 5 anni. Questo, secondo la stampa, ha creato malumore con Schifani, che ieri ha detto questa legge c'è già, non candidabili, polemica Fini-Schifani, il presidente del Senato non serve lo stop di 5 anni, con un Fini che si direbbe adombrato, mentre su questo tema Giulia Bongiorno, finiana di ferro e che collabora con Ghedini, invece avvocato di Berlusconi, a mettere a punto anche i progetti legislativi riguardanti la giustizia. Il progetto del governo è solo un inizio, si estenda l'ineleggibilità a tutti i corrotti. È un'intervista a Liana Milella, Repubblica. Dice Giulia Bongiorno, la parola candidato trae origine dalla toga candida con la quale chi concorreva alle cariche doveva presentarsi in pubblico. Il candidato dovrebbe essere una persona dalla condotta esemplare. Sì, tutto dovrebbe, ma come si fa? Ricorda appunto che dovrebbe avere la toga candida. Il criterio, secondo Giulia Bongiorno, che è quello anche lanciato dal ministro La Russa, è il rinvio a giudizio, un buon punto di partenza. Per dire, chi ha un rinvio a giudizio, magari non per reati minori, ma chi ha un rinvio a giudizio dovrebbe essere tenuto fuori. Anche se la polemica è questa, la trovate sull'Unità e sul Riformista. Sull'Unità, corrotti e indagati, le liste pulite di PDL e Lega. E sul Riformista, altro che liste pulite, nel PDL c'è il pienone di indagati e famigli. Ci sono tutta una serie di nomi, sia quelli che hanno dei procedimenti in corso, passati, in corso, futuri, chissà, insomma, dalla Lombardia al Piemonte. Poi da Inquisitopoli c'è Parentopoli, secondo Riformista, tutt'altra vicenda, ma insomma anche i parenti, la moglie di Alemanno, l'uomo di fiducia di Antonio Tajani, Carlo De Romanis, Alessia Amore, che è sponsorizzata dall'europarlamentare Alfredo Pallone, almeno così si legge su Riformista. Antonia Postorivo, che magari dice poco, ma è moglie dell'ex sottosegretario Antonio D'Alì, senatore. Insomma, ci sono da una parte i parenti, da una parte gli inquisiti, questo secondo il Riformista. Insomma, il tema delle liste pulite, sì, liste pulite no, è un tema interessante, ne parleremo alle 8.30. C'è poi l'altro tema, che però è diverso, sulle liste, un'intervista doppia sul Corriere della Sera, da una parte alla Minetti. Chi è la Minetti? È l'igienista dentale che Silvio Berlusconi ha voluto nel listino lombardo. Il listino, per chi non sapesse, dà sicurezza di elezione nel caso di vittoria, perché sono quel numero di candidati che vengono eletti automaticamente. Decisa, quasi spavalda, mi aspettavo le critiche, le strumentalizzazioni. Ci sono due foto che per la verità le rendono molto onore dal punto di vista estetico sul Corriere della Sera. Non c'è ancora nulla di sicuro, non ho firmato, ma sono una ragazza in gamba, un passato in TV a Colorado Caffè. Ma il mio mestiere non è quello, sono laureata 110 al San Raffaele. C'è chi dice che da tempo andava in giro a dire sono amica del Premier, parlando anche di regali, di bracciali. Sotto alla Minetti c'è l'intervista a Maruska Piredda, che è stata ospite anche di Giuseppe Cruciani un paio di giorni fa, la Zanzara, ex hostess di Alitalia, candidata con l'Italia dei Valori in Liguria e Lombardia, accolta così da 3 colleghi dell'Italia dei Valori, è una società fondata sulla gnocca. È così fin dai tempi di Troia. Davvero poco simpatico il commento, ma anche all'interno dell'Italia dei Valori mugugni per la candidatura di Maruska Piredda. Di Pietro però non cede, basta invidie, è brava e correrà. L'igienista dentale è brava, Maruska Piredda è brava, sono tutti bravi. Sicuramente ci vogliamo credere, mettiamole alla prova. In primo piano. C'è molto ancora di politica, faccio solo 2 segnalazioni. La Bonino pensi a vincere, basta scioperi, perché se da una parte c'è la questione liste pulite, dall'altra le candidature così che fanno storcere il naso a qualcuno, c'è il dilemma Bonino, che ha iniziato uno sciopero della fame candidata alla Regione Lazio e che sta creando qualche grattacapi all'interno del PD, perché addirittura i radicali hanno minacciato: non è detto che la Bonino si candidi, o cambiano le regole, che poi come al solito quando si parla dei radicali non si capisce benissimo, a me, io non capisco mai che cosa vogliono in generale, ma credo sulla questione della RAI, delle partecipazioni eccetera, cose anche che possono sembrare magari di lana caprina ma che invece sono le battaglie dei radicali. E Pannella a Repubblica dice: Emma potrebbe ancora ritirarsi, la battaglia vera è sulla legalità, non siamo assolutamente sicuri e non possiamo avere la certezza di votare, di poter candidare Emma Bonino alle regionali del Lazio. Cioè Pannella dice: non è uno scherzo, non me ne frega niente dei malumori del PD, la questione che valuteremo giorno per giorno, vedremo che fare, ma non è assolutamente certo la candidatura di Emma Bonino. Solo per chiudere la politica, sempre da Repubblica, si dice un qualcosa che probabilmente oggi verrà smentita in qualche modo: Berlusconi pronto a rivoluzionare il partito, si sarebbe detto disgustato dalle lotte intestine e si sarebbe detto anche pentito della fusione con quelli di AN. Si parla di un Bondi e Verdini che sarebbero soprannominati parenti e serpenti, non si parlano più, erano amicissimi, adesso si odiano, chissà qual è la situazione. Sta di fatto che sostanzialmente questo sarebbe il clima interno del PDL. Vabbè, lasciamo la politica, andiamo alle segnalazioni, qualche segnalazione di cronaca. Intanto la leggo dalla Stampa, ma c'è un po' ovunque una polemica che è scoppiata a Goito in provincia di Mantova: solo cristiani all'asilo comunale. È un regolamento che è stato approvato dalla giunta comunale e dal sindaco, che l'ha voluto fortemente, Anita Marchetti, e che dice: tanto rumore per nulla. Sostanzialmente in questo regolamento è una scuola per l'infanzia, ma per iscrivere i propri bambini a questa scuola, la scuola Angeli Custodi, che è portata avanti da alcune suore, il regolamento dice: i bambini sono accolti regolarmente e i bambini iscritti delle famiglie e si persegue qui finalità educative di sviluppo della loro personalità in una visione cristiana della vita. Secondo l'opposizione è una discriminazione, vuol dire, ecco, solo i cristiani all'asilo comunale. Il sindaco dice: ma no, ma è una polemica da niente, perché è una scuola pubblica, si possono iscrivere tutti, però certo è gestita dalle suore, quindi abbiamo adottato il regolamento della Federazione Scuole Materne riconosciuta dalla CEI. Insomma, il tema è sempre quello: discriminazione oppure no. Questa notizia la trovate un po' ovunque sui giornali come polemica. Voglio andare alle segnalazioni conclusive. Intanto un qualcosa che trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina, molto interessante, vale a dire, io ricordo che ne abbiamo parlato già in passato, ma ritorna evidentemente la proposta di legge, sta facendo passi avanti e quindi è addirittura d'arrivo, e riguarda il divieto di fumo. Perché c'è una proposta di Ignazio Marino del PD e Antonio Tomassini del PDL, dunque bipartisan, che vuole regolare in maniera più stringente il divieto di fumo. Divieto di fumo da estendere anche agli spazi all'aperto. Non solo dunque nei luoghi pubblici, ma attenzione, presto, se passerà questa legge, il fumo sarà off limits anche negli spazi all'aperto di scuole, università, ospedali, bar, ristoranti. Inoltre, i minori saranno interdetti all'acquisto e al consumo di tabacco, anche al consumo di tabacco, con pesanti sanzioni per i commercianti che sgarrano. Ci saranno le sigarette spente per chi guida, dunque non si potrà più fumare alla guida. Ci sarà un fondo anti-tabagismo alimentato dall'aumento delle accise su sigarette, sigari, tabacco da fumo e tabacco da fiuto. Insomma, lotta al tabacco, seconda puntata, secondo il Sole 24 Ore, questo giro di vite, 10 articoli di proposta di legge, il divieto di acquisto e di consumo di prodotti da tabacco per i minori di 18 anni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, soprattutto il divieto di consumo, molto interessante. E poi appunto il divieto che viene esteso alle scuole, a tutti gli aspetti, tutti i luoghi aperti, ma di scuole, università, ospedali, quindi non solo all'interno, al chiuso, ma anche gli spazi aperti legati a queste strutture. Le due segnalazioni conclusive, anzi ce n'è una. Chi ha detto che il Tran Tran non esiste? Sentite questo, è un ricercatore che troviamo in prima pagina di Repubblica e poi all'interno. Un ricercatore di origine ungherese, ma che sta in America, alla Northwestern University, ha monitorato 50.000 persone attraverso lo spostamento dei nostri telefonini, no? Sapete che siamo tutti tracciabili. Ebbene, dalla casa al lavoro è sempre il solito tran tran, cioè pare che siamo degli abitudinari in una maniera vergognosa, ma non durante il giorno quando certo c'è la routine, ci si sposta, lavoro, casa, famiglia, spesa, fidanzata, insomma queste cose qui. Pare che anche nel weekend, cioè anche laddove c'è la libertà, c'è il benessere, ci sono i mezzi di trasporti capaci di mandarci anche in orbita, spostarci dove vogliamo, scegliamo sempre gli stessi percorsi, più o meno. Cioè siamo amanti delle abitudini, siamo amanti del tran tran quotidiano, che un po' ci viene imposto e un po', evidentemente, anche nel weekend ce lo cerchiamo. La ricerca pubblicata su Science: facciamo movimenti sempre uguali, sempre uguali, sempre le stesse giornate. Riflettete su questo. E allora ci fermiamo. Sappiate che George Clooney va via da Como, dall'Aglio, vende la sua villa perché pare che Elisabetta Canalis non piacciono troppi paparazzi. E via Clooney forse arriva David Beckham. Bene, con questa notizia imprescindibile dal Corriere della Sera ci fermiamo. Votate allora il sondaggio, le liste pulite, i candidati puliti. Ci vuole una legge per stabilire chi si può candidare? E che dovrebbe dire questa legge? Se non si candida chi è indagato, chi è rinviato a giudizio, chi è condannato in primo grado, in via definitiva. Insomma, legge per le liste pulite. Radio24.it nella home page per votare il nostro sondaggio. Ne parleremo dopo GR24.